Siamo in compagnia di Sergio Sozzo di Sentieri Selvaggi per parlare dell'appuntamento con The Ecstasy o Wilcon Johnson, i 30 anni di Sentieri Selvaggi, un appuntamento importante, questo per la giornata di giovedì 5 aprile. Sergio, ben ritrovato. Grazie, grazie come al solito di ospitarci all'interno dei vostri spazi, è sempre un piacere. Ci racconti un po' di questo importante compleanno? Sono 30 anni da quando Sentieri Selvaggi è stata fondata, appunto nel primo aprile tra l'altro dell'88. E non era uno scherzo. Esatto, anche se in qualche modo l'animo goliardico, provocatorio l'ha sempre accompagnata. Ed è per questo anche che ci piace festeggiare con questo film. È prima fanzine, allegato interno a Cineforum nel mensile, poi rivista a parte, in edicola, sul web, scuola di cinema, sede di eventi, insomma, immagino che i vostri ascoltatori conoscano ormai le mille anime di Sentieri Selvaggi. Questo di giovedì è solo il primo degli eventi che faremo per festeggiare questa ricorrenza. Nel corso degli anni le generazioni selvagge si sono susseguite, adesso da una decina d'anni fondamentalmente il nucleo è quello di cui faccio con molto orgoglio parte, e iniziamo da giovedì, ma poi andremo avanti con tutta una serie di cose sia qui da noi che da altre parti, che sul web. Il consiglio è quello di seguirci perché abbiamo in mente una bella serie di cose che ci accompagneranno fino alla fine dell'anno. Iniziamo con Julian Temple proprio perché il punk è in qualche modo anche l'anima patchwork, l'anima di remix continuo dell'immaginario che appartengono allo stile di Temple. Erano nelle intenzioni originarie di Sentieri che fece un primo numero appunto nell'88 sulla grande scuola del demenziale americano, c'era Belushi in copertina, e quindi appunto Temple era un po' la frangia inglese invece, no? Di queste cose, i Sex Pistols, poi Strummer e così via. Questo Ecstasy Wilco Johnson è un film che abbiamo visto a Torino, al Festival di Torino, dove Temple è sempre molto contento di essere, ormai una sorta di ospite fisso, ed è un documentario dedicato al frontman dei Dr. Feelgood, band della British Revival del blues inglese. Wilco era negli ultimi giorni della sua vita, e insieme a Temple rievocavano immagini di tutta la storia dell'immaginario popolare e dell'immaginario cinefilo, soprattutto degli ultimi 50 anni. Da queste rievocazioni, in questo stato tra il sonno e la veglia, parte il classico montaggio alla Temple, fatto di pezzi di film, pezzi di repertorio, frammenti di canzoni, tutto a velocità supersonica come siamo abituati a vedere. Per noi questo è un po' un simbolo di quello che facciamo ogni giorno su Sentieri Selvaggi: remixare, ributtare tutto all'interno di un calderone, ma con uno sguardo ben preciso, uno sguardo che cerchi di smontare, come dire, anche un certo sguardo istituzionale sulle cose per rovesciarlo. Per cui il film ci sembrava giusto per dare il via a questi festeggiamenti. Devo sottolineare che la proiezione riusciamo a farla grazie agli amici, ai sodali del Circolo Zavattini di Reggio Calabria, Tonino De Pace, che dirige il circolo, ha lavorato a questa copia per una bellissima rassegna che fecero a novembre scorso, e grande generosità ci fornisce la possibilità di poterlo proiettare giovedì. Noi li ringraziamo, e l'evento è a ingresso gratuito come sempre, perciò insomma spero che ci sia un'affluenza numerosa. Benissimo. Allora, intanto ricordiamo anche che l'orario è alle ore 20. Alle ore 20 faremo una introduzione, la farò io insieme a verosimilmente a Federico Chiacchieri, che è il fondatore di Sentieri Selvaggi e che è un Julian Templeiano della prima ora. Ragioneremo un po' del cinema di Temple, ma soprattutto di questo suo ultimo film, e poi via alla proiezione. Benissimo. Ci dai anche tutti i riferimenti web per seguirvi in questo Assolutamente, calendario? assolutamente. La sede è in via Carlo Botta 19, questo sempre appunto al di fuori del web, ma per sapere tutto basta cercare Sentieri Selvaggi su Facebook, sentieriselvaggi.it per le nostre recensioni, approfondimenti, interviste e tutto quello che riguarda il mondo della critica, e Scuola Sentieri Selvaggi invece per i nostri corsi. la settimana successiva, ad esempio, sempre all'interno di quest'ottica di festeggiamenti, verrà a trovarci Matteo Rovere, che è un cineasta che seguiamo sin dalle prime cose, da Un gioco di ragazze, eccetera, e ci sembra poter raccontare anche un rinnovamento anche nel cinema italiano da difendere, che Sentieri Selvaggi ha sempre portato avanti in questi 30 anni. Quindi questo giovedì Wilco Johnson e giovedì prossimo Matteo Rovere. Magari ci sarà tempo anche per riparlare dei prossimi appuntamenti con te. Certamente. Sergio, un abbraccio e a presto. Grazie, grazie, buon proseguimento.